Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Prove di ripartenza delle scuole ieri in Alto Adige, poi Nidie Materne e a Milano, aperto qualche liceo. Prime prove, ma per la prova vera dovremo attendere lunedì, sia sul fronte dei trasporti che sul lato delle cattedre e dei banchi. Vedremo cosa accadrà. Mentre emergono dettagli e proseguono le polemiche, ovviamente, sul piano segretato del Comitato Tecnico Scientifico per la Pandemia, nel quale si segnalava la necessità di dispositivi di protezione e più posti in terapia intensiva già a febbraio. I riflettori si puntano anche sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni picchiato a morte da 4 persone, e su quelli che sono considerati maggiori responsabili, due fratelli bianchi già noti alle forze dell'ordine, le cui foto campeggiano ovunque, con abiti militari o nella palestra dove praticavano arti marziali miste. Ah già, c'è anche il PD che, come nelle attese, ha deciso per il sì al referendum tra qualche polemica. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 8 settembre, sono le 6:32 minuti e 43 secondi. E siamo qua. Siamo anche in diretta su Facebook, come sapete, la nostra pagina è quella di 24 Mattino. Ci trovate su Instagram. Ieri, lo ricorderete, a quest'ora abbiamo ospitato il sindaco di Napoli, De Magistris, col quale abbiamo parlato della possibilità di riapertura degli stadi, e su Instagram ve lo abbiamo chiesto, se vorrete intervenire, che cosa ne pensate? Vi sembra possibile? Ovviamente in condizioni di sicurezza, con un numero limitato di persone, è giusto farlo? È giusto aspettare? Diteci la vostra se volete, anche su Facebook. E sul nostro account Twitter, quello di 24 Mattino. Al di là delle notizie più importanti di questa giornata, c'è una cosa che mi ha colpito. Poi torneremo a parlare tra poco delle nuove norme che arrivano sul codice della strada, che sono quelle previste nel decreto semplificazioni. E parleremo in particolare di bici. Ieri ve ne abbiamo dato conto, ve ne ho dato conto nella rassegna stampa. C'è la possibilità del contromano nelle strade a 30 km orari e molto altro. E però oggi apprendo un'ulteriore novità leggendo i giornali, che anche ai netturbini sarà consentito fare le multe per divieto di sosta. Opportunamente formati. Io non so. La sensazione che tra questo e gli autovelox nelle strade di quartiere, con questo decreto semplificazioni, un po' l'idea di far fare cassa ai comuni, le cui casse sono vuote, si sono svuotate a causa di Covid, un pochino questa idea ci sia stata. Anche su questo ditemi quello che ne pensate, se volete, al 349-238-6666, WhatsApp audio, WhatsApp, SMS. Da cosa iniziare oggi come voci da farvi sentire? Inizierei proprio da Colleferro, da questa vicenda dolorosa, terribile, dall'assassinio di un ragazzo di 21 anni intervenuto per difendere un suo amico che era sotto attacco. Oggi il quotidiano La Repubblica parla di un pestaggio durato addirittura 20 minuti. E qua ci sono raccolte da fanpage le voci di un testimone. Sentiamo. L'hanno fatto anche altre volte, l'hanno fatto a me, l'hanno fatto ai miei amici, l'hanno fatto a persone che conosco. Qualche mese fa magari è successo a un locale che un ragazzo che ha rimesso tutta la faccia, una ventina di punti in faccia. È partito tutto da un litigio tra terze persone per dei mi piace a una ragazza, una storia comunque parecchio stupida. Poi scapparono tutte e due e chiamarono Marco e Gabriele e comunque altre persone. E quando sono arrivati a Piazza Italia, loro, Willy stava salendo in macchina perché c'era la macchina a due passi. Sono arrivati lì, sono scesi, 10 secondi è durato tutto e hanno tirato pugni e calcio a tutti. Willy non c'entrava niente e niente, c'è rimasto. Willy non c'entrava niente, hanno tirato calci e pugni a tutti e questo è il fatto di cronaca. Oggi molte riflessioni sul filo della sociologia, sui giornali, su quello che è successo. Sara, a me sembrano due balordi. Il fatto è dolorosissimo, non voglio, no... togliere nulla a quello che è successo. Due balordi noti alle forze dell'ordine, due picchiatori noti alle forze dell'ordine, con dei precedenti, e la situazione che si prospetta è quella. Per allargare la visione oltre questo fatto di cronaca, ovviamente andiamo alla scuola, va? Andiamo alla scuola, che è temone di giornata, temone della settimana, temone del mese, se volete. Lucia Azzolina, ieri ad Agorà. Si deve utilizzare nei momenti di dinamicità, quando si è in movimento. Il ragazzo ha bisogno di andare alla toilette, deve indossare la mascherina. Certo, la ricreazione. Si fa la ricreazione, allora deve indossare la mascherina. Certo, non quando mangia, perché ho letto anche lì cose particolari. Ma nelle situazioni statiche in cui si è distanziati, quindi si garantisce la sicurezza, la mascherina si può abbassare. Sui banchi, è ingiusto, dice Azzolina, parlare di ritardo. 2,4 milioni di banchi in un paese che ne produceva 200.000 l'anno sono veramente tantissimi, è uno sforzo enorme. E se posso, essere accusati di ritardo è molto ingiusto, perché noi in due mesi consegneremo 2,4 milioni di banchi ed è un lavoro che doveva essere fatto nei 20 anni scorsi e non è stato fatto. Caro Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage, ciao Francesco, si può controobiettare all'Azzolina che forse si potevano ordinare prima, che dici? Buongiorno. Buongiorno a voi, sì, sicuramente si potevano ordinare prima, ma io eviterei di fare della questione dei banchi la questione dirimente del rientro scolastico. Manca ancora una normativa chiara sui lavoratori fragili, mancano ancora gli insegnanti, manca ancora il personale ATA, manca ancora una legge del governo che dica ai genitori che si ritroveranno i figli magari in quarantena a casa perché un loro compagno è risultato positivo, se possono avere lo smart working, se possono stare a casa del lavoro, se possono avere dei surrogati economici per potersi occupare di figli che altrimenti non avrebbero, diciamo, nessun tipo di tutela e assistenza. Quindi da questo punto di vista manca ancora tantissimo per una ripartenza tranquilla e noi ripartiamo il 14 settembre. Piccolo dettaglio, la Spagna è ripartita ieri, la scuola spagnola è ripartita ieri e non mi pare che sui giornali spagnoli si stiano scannando da un mese sulle polemiche sulla ripartenza della scuola. Semplicemente è ripartita, aveva le sue regole e tutto è stato fatto per tempo. I nostri ritardi, forse ha ragione Azzolina, sono accumulati in 20 anni, il governo, no, diciamo, su molte cose non ha fatto ben poco per colmarli in questi 4-5 mesi. Sì, è vero anche, come dice Lucia Azzolina, che la questione delle supplenze, tanto per fare un esempio, non è che sia una cosa di quest'anno. Sentiamola, va. Se invece parliamo del problema supplenti e concorsi, io un po' mi sono divertita a fare la rassegna stampa di tutti gli anni, andando indietro nel tempo, dei giornali di settembre. E i titoli sono sempre gli stessi. caos scuola, babele scuola, guazzabuglio scuola. Quest'anno tra un po' si aggiungono le cavallette. Guarda, devo dirti la verità che Lucia Azzolina, sulla quale si sono appuntate un po' di critiche, molte critiche, non è che abbia proprio tutti i torti, perché in realtà la questione del reclutamento degli insegnanti, Francesco, è là e resta là, cioè pensare di poterla risolvere quest'anno col Covid forse era un po' pretenzioso. No, hai perfettamente ragione, io aggiungo un dettaglio, perché magari non c'entra con gli insegnanti, ma aggiungiamo... mancano 6.000 bidelli, sì, mancano tanti bidelli, certo, quest'anno ne servono di più, questo è ancora il problema. Ogni anno abbiamo un sottorganico del personale ATA, del personale anche tecnico-amministrativo della scuola, quest'anno col Covid ne servono di più, mancano gli insegnanti, mancano i supplenti perché sì, mancavano anche gli anni scorsi, il problema è che quest'anno molti insegnanti si sentono lavoratori fragili, saranno ammalati, serviranno più supplenti, sì. E quindi il problema si amplifica. Cioè, la questione oggi è che il Covid amplifica tutta una serie di problemi della scuola che preesistevano all'Azzolina e preesistevano al Covid. Il problema semmai è che abbiamo fatto una campagna pazzesca sui banchi mentre questi problemi erano tutti sul tavolo. E ripeto, sì, il problema più grave, che è quello delle quarantene delle classi, attualmente non ha ancora risposta. Sì, sì, anche se, sai, poi qua, cioè, leggevo oggi, non so se hai avuto tempo questa mattina, perché tutto sommato è piuttosto presto, c'è un editoriale del Foglio del direttore Claudio Ceraza che si intitola così: no, non trasformiamo la riapertura della scuola in un delitto di cogne, politici, genitori e Talk TV vadano a lezione dai nostri presi, di una lettera nella quale ricorda quello che scrive il periodico Science, che non ci gira attorno, e alla domanda che cosa dovrebbe fare una scuola quando si ritrova di fronte a un caso di positività risponde sinteticamente: short answer, no one knows, nessuno lo sa. Cioè, risposta breve, di fatto nessuno lo sa cosa succede quando c'è un caso di positività a scuola, però è vero che qualche indicazione in più, soprattutto per i dirigenti scolastici, sarebbe utile. Intanto il presidente della regione Campania De Luca dice che apre il 24. Decidiamo il rinvio dell'anno scolastico al 24, accogliendo la richiesta che ci è stata fatta dai comuni, dall'ANCI, l'associazione dei comuni, da tutti i sindacati della scuola. E scioglie De Luca anche questo nodo sul quale ci siamo... intorno al quale abbiamo girato in queste settimane. Il sierologico per gli insegnanti è obbligatorio. Renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico. A livello nazionale si è deciso che è volontario, in Campania dovrà essere obbligatorio. Poi chiaramente in campagna elettorale De Luca... quindi però il punto ci sta. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Beh, il sì del Partito Democratico al referendum per il taglio dei parlamentari, quello che molti denunciano come un allineamento completo, alcuni dicono è un allineamento al populismo dei 5 Stelle, così dice qualcuno. Sentiamo Zingaretti, va. Io ho proposto un sì per cambiare, finalmente per fare le riforme. Tutta la vita ho lottato contro l'antipolitica e lotterò tutta la vita contro l'antipolitica, ma per farlo è giusto cambiare. Che ne pensate? Il PD che si piega ai 5 Stelle, questo? Che ne pensate? 349-238-6666, il traffico, e poi voglio sentire anche Francesco Cancellato che mi dice di questo sì del Partito Democratico, un po' scontato a dire il vero, traffico. Mattino. Francesco, mi pare ampiamente scontato il sì arrivato dalla direzione del Partito Democratico al referendum, anche se con tutti i distinguo del caso, con tutto il fatto che Zingaretti ha trovato una specie di sotterfugio per ottenere una maggioranza più ampia, però ce l'aspettavamo. Sì, ci sono degli aspetti paradossali. Tommaso Nannicini, che è uno dei primi parlamentari, senatore del PD, a favore del no, che fa un intervento a favore del no, ma nel conteggio risulta a favore del sì perché non aveva inviato una mail prima, quindi vabbè, quel conteggio lascia un po' il tempo che trova. È chiaro che la segreteria ha la maggioranza, è chiaro che la maggioranza dei parlamentari democratici è a favore del sì, anche se ricordiamolo, il PD aveva votato in tre letture della legge no e solamente la quarta lettura aveva votato a favore del sì. La cosa diciamo che sta sotto traccia rispetto a questo referendum è ovviamente la debolezza e il fatto che la leadership di Zingaretti sia un po' claudicante e aspetta l'esito di queste regionali per mostrare quanto sia claudicante, nel senso che quando ancora non eravamo in par condicio, c'erano i sondaggi, si diceva può finire 3-3, può finire 5-1, insomma sì. Vedremo quando le elezioni saranno finite e si apriranno le urne, quanto la leadership di Zingaretti e aggiungo quanto il governo reggerà, lo vedremo. Tra l'altro ne parleremo più avanti nel corso della trasmissione alle 8.35. Avremo ospite il leader della Lega, Matteo Salvini. Sarà nostro ospite, anche visto che parlavamo di istruzione, il ministro dell'università, Manfredi, perché poi è l'altro fronte, la riapertura, l'altro grande fronte oltre alla riapertura della scuola è la ripartenza dell'università. In che modo, con che modalità, con che futuro, quali cambiamenti ha portato Covid anche in questo universo. Ieri ne ho parlato in rassegna stampa, ce ne siamo occupati, di questa mini riforma del codice della strada che è entrata nel decreto semplificazioni. Cosa succede? Entrano gli autovelox urbani, ossia nelle strade più piccole, in sostanza, con l'autorizzazione del prefetto potranno essere messi gli autovelox, quelli col telelaser, gli accertatori della sosta, gli ausiliari avranno maggiori poteri di sanzione, potranno fare multe anche i netturbini, se l'auto blocca la raccolta dei rifiuti, ci vuole la documentazione fotografica, però potranno fare le multe anche loro. Nascono le zone scolastiche con circolazione limitata in prossimità delle scuole e sta facendo un po' discutere anche tutta la parte sulle biciclette. A partire dal grande tema del contromano. Le biciclette possono andare contromano oppure no? In alcune grandi città europee questo già avviene. Le nuove norme prevedono che questo sia consentito nelle strade con massimo la cui velocità sia fissata a 30 km orari. Paolo Pinsuti di Bike Italia, buongiorno, col quale ieri abbiamo un po' discusso su Twitter di questo tema. Allora, Pinsuti, cosa vi pare di queste nuove norme che sono in arrivo, che sono arrivate al decreto semplificazioni? Ma allora, dobbiamo partire dal contesto. Noi siamo in una situazione in cui le nostre città, a causa dell'impossibilità di riempire i mezzi pubblici, rischiano di essere soffocate dal traffico. Se vogliamo evitare che il traffico blocchi completamente le città, e già nel periodo pre-Covid noi ci giocavamo 50 miliardi di euro l'anno a causa dell'inefficienza del traffico, evidentemente dobbiamo puntare su altre forme di mobilità. La bicicletta è una di queste. E per farlo funzionare bisogna permettere che le biciclette possano permeare tutta la città e non solamente alcune strade, e quindi si possa derogare ad alcune regole che sono state pensate appositamente per la mobilità, sì, per spostare le automobili. Il tema del controsenso ciclabile doppio senso eccetto auto, come piace definire a me, è una norma che è in vigore in tutta Europa, in Germania addirittura da 30 anni, no? Non ha dato particolari problematiche, non dà problemi di natura di sicurezza, e quindi sì, sono abbastanza certo che anche in Italia potrà essere introdotta senza problemi. Senza grandi problemi. Pinsuti, no. Solo una domanda su questo. Sono anche cambiati i mezzi, perché le città, e non solo le città, sono invase da mesi ormai da delle bici a pedalata assistita o addirittura elettriche, che non dico che siano assimilabili a degli scooter, ma quasi praticamente, cioè sono bici che magari fanno i 30 all'ora. Bisognerebbe trovare una limitazione per queste? Ma la limitazione esiste già, che è il limite di 25 km orari, e poi a un certo punto sta l'autorità a sanzionare chi non rispetta queste norme. In alcuni paesi esistono biciclette a pedalata assistita o biciclette elettriche che raggiungono i 45 km orari. In Italia questi modelli sono vietati, quindi già una normativa in questo senso c'è. Cioè, in ogni caso bisogna capire esattamente che tipo di mobilità, che tipo di città abbiamo in mente. In Italia noi abbiamo 3.400 morti all'anno per incidenti stradali, 200.000 feriti, famiglie distrutte, l'1,5% del PIL ce lo giochiamo in questo modo. Dobbiamo chiederci veramente se il problema sono le biciclette, ragazzi, perché altrimenti non ne usciamo. Il problema magari non sono le biciclette, c'è anche una questione, Pinsuti, che ha a che fare con il comportamento stradale di chi va in bici. Qua ci sono molti ascoltatori che ci stanno scrivendo, lo potrà ben immaginare, gli automobilisti che ci dicono: vabbè, insomma, già non rispettano le regole così, figuriamoci se gli consentiamo di andare contromano. Guardi, la questione è molto semplice, è molto difficile giocare a ping pong con le regole del rugby, no? Nel senso, il codice della strada è stato scritto a uso e consumo per dell'automobile, perché era un periodo in cui serviva vendere più automobili possibile. Oggigiorno chi utilizza la bicicletta, in particolare in città, molto spesso si ritrova di fronte a progettazioni che non sono fatte per accogliere l'uso della bicicletta, si deve barcamenare tra normative che non sono chiare. Pensiamo al tema dell'attraversamento sulle strisce pedonali, no? Perché sì, poca attenzione è stata dedicata al tema. È chiaro. Vabbè, che là, là è semplice, essere... là è semplice, devi scendere dalla bici e prendere la mano. Che non è così, guardi che non è così semplice. Esistono pronunciamenti, per esempio, ministeriali che dicono che non è così, che è una questione di semafori, eccetera, eccetera. Cioè, proprio questo è il punto, che la normativa non è stata scritta per agevolare l'uso delle biciclette, di conseguenza sembra che i ciclisti siano una categoria assolutamente indisciplinata, ma basta utilizzare la bicicletta per rendersi conto che esistono moltissimi momenti in cui non si sa esattamente che pesci prendere, uno tende a improvvisare. In ogni caso bisognerebbe ragionare come si ragiona sul tema della sicurezza sui posti di lavoro, si guarda quello che è il tema dell'esposizione al pericolo, la magnitudo del pericolo, e poi si stabilisce qual è il coefficiente di rischio e si provvede per contenere il rischio. Sì. No, la bicicletta è poco pericolosa, quindi è giusto dare tanta attenzione a delle automobili, dal punto di vista della normativa, a delle automobili che sono ogni giorno sempre più grosse, ogni giorno sempre più potenti, ogni giorno sempre più pericolose. Un'automobile oggi ha la stessa potenza e lo stesso peso dei camion che avevamo negli anni 50, quando abbiamo scritto il codice della strada, no? Ed è normale, insomma, che uno tenda a tutelare maggiormente i soggetti deboli e che poi tenda a accanirsi un pochino di più nei confronti del soggetto forte. In Danimarca, per intenderci, esiste la presunzione di colpevolezza del soggetto forte, cioè in caso di incidente tra un ciclista e un pedone è il ciclista che deve dimostrare di aver agito in assoluta ottemperanza del codice della strada, e così via andando verso il soggetto più forte, fino a salire, cioè giusto, camion, auto, eccetera eccetera, cioè a salire. Beh, questo è uno spunto interessante, come diceva l'uomo ragno, a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità, no? vabbè non la metterei proprio così. Poi vabbè, qua ci sono molti ascoltatori che ci scrivono, ovviamente, perché come sa Pinsuti, questa storia scatena il dibattito tra automobilisti e ciclisti in maniera radicale. Lo diciamo ieri, divide più che destra e sinistra, divide più che sì e no al referendum. Grazie Paolo Pinsuti, alla prossima di Bike Italia. Grazie anche a Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage. Ciao Francesco, ci sentiamo anche con te presto. Ciao Simone, e ciao a tutti. Ciao. ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa. Molte cose, a partire dal famoso rapporto del Comitato Tecnico Scientifico, sul quale oggi torna il Corriere della Sera con addirittura due pagine, con molti, molti dettagli. A tra poco. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.